While most masculine words end with an o sound, for example, as in the word for passport, passaporto, most feminine words, such as valigia, suitcase, end with an a sound. In that last dialogue, when Lorenzo asked about Sarah's suitcase, he said, È questa la sua valigia? Is this your suitcase? Now listen to what happens to the other words in the sentence if a masculine noun is used. For example, Il passaporto. The passport. È questo il suo passaporto? So in that question, when referring to a masculine noun, Questa turned into Questo. And the word for your, Sua, turned into Suo. Listen to the question again and repeat. È questo il suo passaporto? Here are four new words, two masculine and two feminine. Il libro. The book. Masculine. La macchina. The car. Feminine. Il portafoglio. The wallet. Masculine. La borsa. The bag. Feminine. Now listen to the words again, but after each one, per esempio, la macchina, ask the question, è questa la sua macchina? After a pause, you'll hear the correct answer and you can repeat it. 1. Il portafoglio. È questo il suo portafoglio? 2. La borsa. È questa la sua borsa? 3. Il libro. È questo il suo libro? 4. La macchina. È questa la sua macchina?